infatti, però non è fatto no, come dici, non è strada fagotto, capito? Vabbè, però atmosfera fagotto. Sabato 27, CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino a Centocelle. Alle ore 23, World Beer e Aona. Techno Live Set, direttamente da Gegen di Berlino. There is no there is no 27 maggio, CSOA Forte Prenestino, via Del Pino, Centocelle. 40 anni sulla cresta dell'onda. Serata sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Per info consulta il sito 40anni.ondarossa.it.